Ho sempre letto con un certo imbarazzo il Sermone sul Monte, nel quale Gesù fa degli accostamenti che mi hanno lasciato un poco perplesso. Egli definisce beati, cioè felici, coloro che su questa terra sono afflitti, perché in cielo saranno consolati. Per lui i mansueti, cioè coloro che non hanno uno spirito di conquista in cose terrene, sono felici perché un giorno erediteranno la terra. Coloro che sono affamati e assetati di giustizia, perché, per Gesù, un giorno saranno consolati. Matteo 5.1.11. Forse non vi è nulla di imbarazzante, perché sono promesse ormai note anche agli increduli, e ciò che è saputo e risaputo molto spesso non fa notizia. Ma il mio imbarazzo, anche se anacronistico, aveva ragione di esistere. Prima di tutto perché un discorso come quello di Gesù sembra presentare il cristianesimo come una fede destinata ai falliti su questa terra. Se si vuole essere felici per l'eternità, se si vuole regnare in un futuro su questa terra, se si vuole essere consolati, occorre vivere il contrario nel presente. Perciò, secondo questa prospettiva, il credente dovrebbe allontanare dalla sua esistenza la gioia, gli obiettivi di successo per cercare disperatamente con tutto il cuore ciò che affligge, ciò che fa dispiacere, tutto ciò che provoca dolore. E questo dunque il cristianesimo? Fa coro a questo pensiero, poi, il racconto di Gesù in merito a Lazzaro e il ricco Epulone, il quale, essendo finito negli ardenti tormenti dell'inferno, chiede a Dio di mandare Lazzaro a intingere la punta del dito nell'acqua per rinfrescargli la lingua. La risposta di Dio è scioccante e lascia ancor più esterrefatti in merito al tema che stiamo trattando. Figlio, ricordati che tu nella tua vita hai ricevuto i tuoi beni e che Lazzaro similmente ricevette i mali, ma ora qui egli è consolato e tu sei tormentato. Luca 16. Incredibile! Chi ha ricevuto dei beni, chi ha una vita appagata, chi non ha avuto grandi tribolazioni, nell'aldilà avrà esattamente il contrario. Mentre anche chi ha sofferto, chi più soffre, in cielo sarà ripagato con l'opposto, cioè gioie e consolazioni. Se così è, allora evviva la sofferenza. Ben venga una vita travagliata, mi facciano pure soffrire perché mi fanno un favore. Ma che fede è questa? E, masochismo a livello puro, se le cose stanno così, capisco perché ci sono pochi cristiani. Se Cristo invita ed ordina di cercare la sofferenza per poi essere felici nell'aldilà, è una fede inumana, se non insensata. Ma, come sempre, le parole di Gesù devono essere comprese. E nella mia esperienza personale è: mi è occorso tanto tempo per afferrarne il senso, anni e anni di lettura perché la parola di Dio possa illuminare la mia mente e il mio cuore. Alcune cose, come disse Gesù, sono immediatamente comprensibili, tanto che perfino dei piccoli fanciulli sono in grado di assimilarle. Ma molto più numerose sono quelle oscure e che ci vengono rivelate quando Dio lo decide nella sua sovranità. Come per esempio le beatitudini delle quali stiamo parlando. Il mio spirito non trovava riposo fino a quando, dopo più di 40 anni di seria lettura biblica, un piccolo barlume di luce divina è entrata nella mia mente e nel mio cuore. Perché queste beatitudini promesse da Gesù sono inversamente proporzionate alla vita terrena? Abbiamo forse a che fare con un Dio veramente strambo, stravagante, bizzarro? O per usare un altro sinonimo, abbiamo a che fare con un Dio balordo. Niente di tutto questo ne ho avuto coscienza quando mi sono fermato a riflettere come è la nostra esistenza umana. Noi viviamo in un immenso e complesso creato governato da leggi che ancora oggi stiamo scoprendo. Noi abbiamo una relazione con queste leggi, come la legge di gravità, ma ve ne è una con la quale abbiamo un continuo rapporto e senza la quale non potremmo vivere. È la legge della compensazione. Se siamo stanchi, per la legge della compensazione ci riposiamo. Se abbiamo freddo cerchiamo il caldo, e se abbiamo caldo cerchiamo il freddo. La vita funziona così. Non so perché funziona così, come per millenni gli uomini non sapevano il perché gli oggetti cadessero a terra. Ma mi limito a considerare che nessuno è esente dall'osservare la legge della compensazione. A dire il vero, ho anche una spiegazione mediante la quale mi sembra di poter dire di scalfire una immensa verità, e cioè, che tutto il creato non fa altro che rispecchiare le verità eterne di Dio. Per cui se vi è una legge della compensazione sulla terra, significa che esiste una legge della compensazione in cielo. E questo fa pensare. Fa pensare perché noi abbiamo un'idea della vita futura piatta e incolore, mentre il cielo ha l'incarico di applicare la legge della compensazione alla razza umana, o se vogliamo il raggiungimento di un equilibrio a causa di una disarmonia terrena. In definitiva, poiché sulla terra le cose non sono equilibrate, il cielo fa la funzione compensatrice. Prendiamo esempio da quanto leggiamo nel libro dell'Apocalisse, in merito a coloro che saranno vittoriosi nel periodo della grande tribolazione. Non avranno più fame e non avranno più sete. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita. E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. 7.1.4.17. Dunque, poiché questi credenti a causa della fede avranno pianto per aver sofferto fame e sete, per la legge della compensazione, in cielo godranno una totale assenza di ciò che hanno sofferto sulla terra. È sotto questo aspetto che dobbiamo capire le beatitudini di Gesù. Il cielo è il luogo nel quale non vi sono certamente lacrime di sofferenza, ma una cosa è non averne mai versate. Altra cosa è avere il piacere di non versarle. Un discorso, questo, che deve essere ampliato. Ho in mente quei credenti che, per la loro fede, sono stati bruciati vivi e penso a quanto abbiano sofferto, i quali, poi, essendo all'improvviso subentrata la morte, non hanno sentito più niente perché la loro parte spirituale, cioè anima e spirito, si sono separati dal corpo. Penso anche meno. E qui mi rifaccio a molte testimonianze di persone che, avendo sperimentato la morte cerebrale, si sono viste fuori dal corpo. Meno ritengo che si siano anche visti mentre gli angeli li portavano in cielo, Luca 16.2.2. Si sono ritrovati, senza più soffrire il tremendo morso del fuoco. Che contrasto! Un contrasto goduto, e del quale non può compiacersi chi non è stato arso vivo dal fuoco. Non credo che sia pura fantasia, perché la vita terrena ha un valore eterno, e lo dimostra il fatto che in cielo i redenti loderanno Cristo, perché sono stati liberati dai loro peccati, app 1.5. Per affermarlo occorre non dimenticare la perdizione e la salvezza avvenuta sulla terra. Solo così si comprendono maggiormente le beatitudini di chi ora soffre causa la fedeltà a Cristo, perché in cielo avranno occasione di realizzare una gioia diversa da quella di coloro che saranno salvati sempre per la grazia di Dio, ma senza averne pagato un prezzo alto. In definitiva, come si gode il riposo quando si è stanchi, e tutti sappiamo che tormento sia il riposarsi quando non si è stanchi, come si gode un sorso di acqua quando si ha sete. Tutti sappiamo quanto sia sgradevole bere per forza perché il dottore ce lo ordina. Così si godrà in cielo quando avremo per compensazione ciò che non abbiamo avuto sulla terra. Questo aspetto del cielo mi spiega un'altra verità in merito al futuro, che per un tempo ho ritenuto molto enigmatica, una verità citata nella lettera agli Ebrei. Ci furono donne che riebbero per risurrezione i loro morti. Altri furono torturati perché non accettarono la loro liberazione per ottenere una risurrezione migliore. Ebrei 11.35. L'autore della lettera agli Ebrei ricorda che, per fede, alcuni credenti furono in grado di realizzare grandi promesse di Dio, come appunto ottenere la resurrezione dei morti dei loro cari, mentre altri, sempre per fede, non ottennero risultati favorevoli o positivi per questa vita, ma accettarono di soffrire per la loro fede allo scopo di ottenere una resurrezione migliore. E è quella resurrezione migliore che fa pensare. La resurrezione non è forse uguale per tutti, ci sono forse resurrezioni diverse, una migliore dell'altra. Per dirla con una battuta, uno forse risorge e va in cielo con la carrozza mentre l'altro ci va con una Ferrari, o forse uno risorge più bello di un altro. Credo che non siano questi i giusti interrogativi, e, alla luce di quello che abbiamo detto, la spiegazione è questa. Tutti i credenti risorgeranno per essere glorificati. Ma mentre alcuni saranno appena salvati come attraverso il fuoco, 1 Corinzi 3.15, godranno delle beatitudini celesti come uno gode una bella giornata di sole, altri godranno il calore del sole per compensazione, perché avranno sofferto il tremendo freddo della persecuzione e della sofferenza. Tutti sono partecipi delle stesse gioie e benedizioni, ma non tutti le percepiscono nello stesso modo, come non è uguale un sorso di acqua, così è della resurrezione migliore. Ora comprendo meglio il valore della sofferenza cristiana. In genere si fa presente che la sofferenza sviluppa delle virtù cristiane e ci rende partecipi di Cristo, e questo è vero, ma se la sofferenza di oggi mi può dare meno per compensazione, meno maggiore gioia nell'aldilà, allora stringo i denti e tengo fissi gli occhi in cielo. Soffrire non mi piace, ma se Dio mi concede una vita carente di affetto, per poi provare appieno l'amore di Dio, se mi dona un'esistenza piena di opposizioni, come ebbero anche tanti profeti, perché possa un giorno sentirmi dire sei stato fedele in poca cosa. Se mi concede di soffrire più di altri in mille modi e in mille maniere, perché a chi più è stato dato più è richiesto, allora. Allora non dico più niente, e ancora una volta adoro il Dio giusto perché si è compiaciuto di prepararmi una resurrezione migliore. Cosa voglio di più? Gennaio 2010. Ellero.